una multinazionale ha deciso di non fidarsi, non tanto dell'Italia quanto dell'Europa, e hanno dichiarato che sono intenzionati a riprendere l'attività non appena il decreto legge che noi abbiamo approvato, che ha approvato il Consiglio dei Ministri, sarà notificato e validato da Bruxelles. Questo perché in precedenza, negli ultimi 10 anni, l'Alcoa ha ricevuto delle tariffe speciali che sono poi state impugnate dalla Commissione europea e è stata data loro una multa. Prima considerazione, quella multa era di 600 milioni di euro, il governo ha fatto in modo che fosse dimezzata, 300 milioni, sempre una somma molto grande. Però poi noi abbiamo messo in campo una serie di misure assolutamente inoppugnabili che portavano il prezzo a 34 euro al megawattora. L'Alcoa ci ha detto in riunione che 34 era troppo alto, lei ha già detto quali sono i prezzi dell'energia, quindi gli ascoltatori certamente capiscono che era già un prezzo molto basso. Abbiamo fatto un decreto legge che è inattaccabile, quindi è già stato utilizzato in altri settori, in altri paesi, questo strumento della interrompibilità. E nonostante questo, l'amministrazione da Pittsburgh, Alcoa, ha fatto sapere che aspetta questa scadenza. Ma mi È scusi, chiaro? io non ho capito. Loro vogliono che il decreto venga convertito in legge, che diventi. Cosa vogliono? Allora, il decreto legge intanto è un Perché decreto legge, quindi è immediatamente in è vigore. esatto, e ha teoricamente 60 giorni, però. Dicono che la misura deve essere validata e non impugnata dalla Commissione europea, garanzia che noi gli abbiamo dato. Peraltro questo prezzo noi con il decreto legge lo garantiamo per 3 anni, come loro avevano chiesto.